Ciao, sono Sara, ho 19 anni e studio giurisprudenza a Trento. Sono stata referente del presidio Rosario Livatino del Liceo Cassini di Sanremo e il mio impegno in libera, ad ora, continua principalmente all'interno del presidio Celestino Fava dell'Università di Trento. Insieme entreremo nel mondo dei beni confiscati alle mafie. Oggi parleremo di beni confiscati. I beni confiscati costituiscono l'enorme patrimonio di ricchezze accumulato dai clan attraverso le loro attività mafiose e che grazie alla legge 109 del 1996, approvata a seguito di una proposta di iniziativa popolare voluta da Libera e grazie al loro riutilizzo sociale, vengono restituiti alla collettività. Ora, per capire che cosa sia il riutilizzo sociale e la funzione della legge 109 del 1996 è necessario fare un salto indietro nel tempo e analizzare quale è stato lo sviluppo della regolamentazione relativa ai beni dei mafiosi all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. In particolare è rilevante in materia la legge 575 del 1965, che ha come titolo Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso anche straniere. E questa norma si applicava a coloro che erano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguivano finalità o agivano con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. E questa legge prevedeva che nel momento in cui diventavano definitivi i provvedimenti di prevenzione personale, decadessero anche le licenze di commercio, le licenze annonarie, le concessioni di acque pubbliche, l'iscrizione all'albo degli appaltatori e delle forniture pubbliche. Successivamente, una ventina di anni più tardi, viene introdotta nel nostro ordinamento una legge fondamentale relativamente alla confisca dei beni, ma non solo, ed è la legge 646 del 1982, nota anche come legge Rognoni La Torre. Ora, bisogna collocare, diciamo, storicamente questa legge. Infatti, brevemente, notiamo che dalla fine, dagli anni 60 più o meno, agli anni 80, c'è una grande attenzione, a livello soprattutto delle indagini della magistratura verso il fenomeno mafioso. Ricordiamo che nell'86 c'è il maxi processo a Cosa Nostra a Palermo, no? Quindi nel 1982 avvengono anche due omicidi per mano di Cosa Nostra, che sono l'omicidio dell'onorevole Pio La Torre, era un sindacalista ed era firmatario della proposta di legge che avrebbe istituito il reato di associazione mafiosa e anche l'introduzione della confisca dei beni agli appartenenti alle cosche, appunto la famosa legge Rognoni La Torre, che porta il nome di Pio La Torre. E nello stesso anno viene anche ucciso il generale e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Questi due omicidi, quindi questi due eventi tragici, sono, diciamo, propulsivi nella legislazione antimafia, in quanto il 13 settembre del 1982 viene appunto approvata la legge che porterà il nome di Pio La Torre, la le legge Rognoni La Torre, che reca come titolo Associazione a delinquere di tipo mafioso e disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Con questa legge viene istituito nel codice penale il reato di associazione di tipo mafioso e viene quindi introdotto il famoso articolo 416 bis che riconosce autonoma rilevanza penale e sanziona l'associazione di tipo mafioso e individua anche i metodi dell'associazione mafiosa. E questo viene fatto nella prima parte dell'articolo, nella prima parte della legge. Inoltre, Pio La Torre in realtà aveva capito l'importanza di sequestrare il patrimonio appartenente alle cosche, ai clan mafiosi. Infatti, l'onorevole La Torre aveva chiaro appunto il grado di rilevanza che avevano le ricchezze per i mafiosi, perché attraverso le ricchezze, attraverso il loro patrimonio, la mafia, comunque denominata, riesce ad avere un controllo sul territorio, e quindi sequestrare i beni significa sferrare un colpo alla loro egemonia economica e quindi intaccare il loro potere. E infatti nell'articolo 1,7 della legge Rognoni-La Torre si legge: nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Pertanto viene sferrato un durissimo colpo ai mafiosi nei cui, i cui beni vengono appunto sequestrati. Tuttavia, ciò che la legge Rognoni-La Torre non disciplinava era il modo in cui i beni, una volta confiscati, dovessero essere riutilizzati. Ora, si sono susseguite diverse normative, tuttavia è fondamentale in materia la legge 109 del 1996. Ora, la legge 109 del 1996 reca disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati. Ed è una legge che nasce appunto da un'iniziativa popolare sostenuta dalla raccolta di 1 milione di firme da parte dell'Associazione Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie. Libera era nata nel 1995, quindi praticamente appena nata lancia questa raccolta firme, e la legge 109/1996 proposta da Libera prevede tuttora il riutilizzo sociale dei beni confiscati, ed è proprio questa la portata innovativa dell'iniziativa legislativa. Che cosa significa quindi il riutilizzo sociale? Allora, il riutilizzo sociale significa che i beni non possono avere altra funzione se non quella di servizio alla società, e quindi devono tornare a quelle comunità a cui sono stati sottratti con la violenza per diventare servizi, scuole, strumenti e luoghi di lotta al disagio. E quindi sostanzialmente i beni diventano un atto di giustizia, perché permettono di ricostituire un'economia, un tessuto sociale che era stato lacerato dalla presenza mafiosa. E questa ricostituzione sostanzialmente del tessuto sociale avviene proprio attraverso la concessione del bene a, ad esempio, cooperative, associazioni, al fatto di usarli come scuole, cioè per costituire comunque un luogo in cui la società civile può ritrovare se stessa, in buona sostanza. Ora, tornando da un punto di vista, diciamo, storico-giuridico, nel 2010 venne istituita con il decreto legge numero 4/2010 l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, che ha il compito di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni che sono stati sequestrati alle mafie, beni che devono essere sequestrati a seguito di una confisca definitiva, e ha anche il compito di coadiuvare l'amministratore giudiziario sotto la direzione dell'autorità giudiziaria durante la fase di sequestro fino alla confisca di primo grado, dopodiché l'agenzia assume la gestione diretta del bene. Ora, questo perché? Perché sostanzialmente questo riguarda il procedimento di confisca. Infatti, prima di arrivare alla confisca definitiva del bene, cioè quando l'agenzia assume direttamente la gestione del bene, appunto ci sono diversi gradi di confisca. La prima cosa che avviene è il sequestro del bene, cioè il bene viene sostanzialmente congelato, quindi non può più essere utilizzato dal mafioso, ma non diventa ancora parte del patrimonio dello Stato, quindi Il bene non può essere congelato, non può essere usato dal mafioso, ma non può essere usato neanche dallo Stato, perché non è ancora proprietario. I beni quindi sono affidati alla cura dell'amministratore giudiziario. La fase successiva è poi quella della confisca di primo grado, che è un provvedimento che ha ancora una natura temporanea e serve per mantenere fermo il sequestro, poi avviare il procedimento che condurrà alla confisca di secondo grado e infine alla confisca definitiva. Con la confisca di secondo grado, ecco che l'Agenzia Nazionale inizia a svolgere un ruolo di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria. E quindi soltanto dopo la confisca definitiva si potrà dire di esserci ripresi effettivamente quel bene che era stato usato per i propri affari illeciti dal mafioso, che quindi viene restituito alla società civile. E la confisca definitiva avviene dopo un lungo dibattimento durante il quale l'imputato cercherà di dimostrare che il bene non è frutto di un arricchimento illecito. Ora, tornando di nuovo appunto alla storia giudiziaria, bisogna tenere presente che il codice antimafia è stato che nel 2011 appunto è stato approvato il codice antimafia con l'intento di uniformare la legislazione in materia e raccogliere tutte le leggi, appunto nel decreto legislativo 159/2011 conosciuto come codice antimafia, e questo codice antimafia è stato modificato nel 2017. Appunto vi sono state diverse modifiche e in particolare nel 2017 si è introdotta la possibilità di sequestrare, quindi di confiscare, scusate, i beni anche alle persone corrotte, quindi non soltanto ai mafiosi. Tuttavia, per poter sequestrare i beni ai corrotti è necessario che venga riconosciuto il vincolo associativo, e proprio la difficoltà di poter dimostrare questo vincolo associativo rende difficile la confisca ai corrotti. Ora, i beni sono sostanzialmente di tre tipi, cioè abbiamo beni mobili come auto, moto, natanti, denaro, beni immobili, quindi appartamenti, ville, terreni, palazzi, box, autorimesse, capannoni, e poi abbiamo i beni aziendali, che quindi sono aziende, quote di partecipazioni societarie, cose di questo tipo. E il codice antimafia stabilisce per loro dei percorsi diversi. La categoria su cui maggiormente incidono le misure di prevenzione e su cui maggiormente anche trova il suo riscontro, diciamo, lo spirito della legge 109 sono i beni immobili, in quanto i beni immobili, secondo l'articolo 48 del codice antimafia, possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, e quindi essere messi a disposizione delle amministrazioni statali, così ad esempio quando i beni confiscati vengono convertiti in caserme per le forze dell'ordine. Oppure i beni vengono trasferiti in via prioritaria ai comuni, in via secondaria alle province e alle regioni, e questi enti territoriali a loro volta possono o amministrare direttamente il bene, ovvero assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento a una serie di soggetti sociali che sono indicati dalla legge, quindi associazioni, cooperative, gruppi, comunità. E è proprio grazie a questa realtà che viene garantita, come si diceva, l'applicazione dello spirito della legge 109 del 96, in quanto questi luoghi simbolo del potere mafioso vengono trasformati in luoghi di riscatto e di dignità. Ora, qualche dato, ad oggi in Italia i beni confiscati sono oltre 23.000, di cui 14.000 sono già destinati agli enti locali e pronti per essere riutilizzati dalla cittadinanza. La prima regione per numero di beni confiscati è la Sicilia, con oltre 6.000 immobili, e secondo una ricerca di Libera sono più di 750 le realtà sociali che gestiscono i beni confiscati. Tra queste abbiamo 400 associazioni no profit e di volontariato, 180 cooperative sociali che prevedono il reinserimento lavorativo di persone con disabilità e 13 sono scuole di diverso ordine e grado. Ora, per sapere quanti sono, dove sono e come vengono riutilizzati i beni confiscati in Italia, esiste una piattaforma che si chiama Confiscati Bene 2.0, che è nata in collaborazione con Libera, che promuove con trasparenza il riutilizzo dei beni sottratti alle mafie e sostanzialmente risponde a questi interrogativi fornendo degli open data completi, fruibili, aggiornati sul bene e sulla sua destinazione, sostanzialmente con una sorta di monitoraggio civico. E il portale sostanzialmente monitora i 14.000 immobili confiscati alle mafie, creando un punto di riferimento importante per chi è interessato ad operare in questo contesto. E tra l'altro questa piattaforma raccoglie il racconto di tante pratiche di riutilizzo sia istituzionali sia sociali e contiene anche molte informazioni riguardo proprio alla confisca dei beni, al come vengono gestiti e può essere appunto a disposizione di chiunque sia interessato. Molto bene, io spero quindi di essere stata sufficientemente chiara, vi ringrazio per aver ascoltato fin qui questa pillola. E beh, per qualunque domanda potete consultare quindi il sito di Beni Confiscati 2.0 oppure insomma attraverso le pagine di Instagram e di Facebook di Libera Imperia potete rivolgerci qualunque domanda e saremo felici di rispondere.